Radio 24 Reportage. Tariffe low cost, accessibili a tutti e una specializzazione nei disturbi del vivere contemporaneo, attacchi di panico, depressione, bulimia e anoressia. Con queste caratteristiche la Onlus Jonas copre un vuoto e viene incontro a molte persone che non potrebbero mai affrontare la spesa di una terapia psicanalitica. Il fondatore è un famoso psicanalista lacaniano, Massimo Recalcati. Dal nulla, con le nostre sole forze, quindi senza usufruire di finanziamenti o di altri sostegni di questo genere, abbiamo creato qualcosa che si è sviluppato molto rapidamente, ben al di là delle nostre, diciamo, iniziali previsioni. Attualmente Jonas è diffuso in 16 città italiane, coinvolge un 150 soci e offre un servizio terapeutico ai pazienti dove siamo presenti, e in più un altro dei nostri interessi è quello di sviluppare un'attività di ricerca scientifica su questi sintomi. Siete specializzati in bulimia, anoressia, tossicodipendenze, dipendenze in generale, ansia, attacchi di panico, depressione. Li chiamate sintomi di disagio contemporaneo? Sì, sono sintomi che riflettono, diciamo, una situazione di disagio attuale. Sono sintomi che tendono, per esempio, ad assumere una diffusione epidemica, perché per esempio l'anoressia non è che non c'era alla fine degli anni 60, quando nascono i primi studi scientifici su questa patologia, che in realtà è ancora più antica, insomma, viene classificata in psichiatria alla fine dell'Ottocento. Abbiamo però ritratti di sante medievali anoressiche, per cui l'anoressia c'è sempre stata nel mondo occidentale, però per esempio il fatto che noi lo definiamo un nuovo sintomo è anche perché tende ad assumere nelle società a capitalismo avanzato una diffusione epidemica di massa. Anche i disturbi di attacchi di panico sono ormai un fenomeno di massa. Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione ed amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive. Sono fenomeni di massa, però i costi per accedere a una terapia psichiatrica non sono affatto costi accessibili alle masse. A Milano si parla di una seduta che di solito come tariffe non va sotto gli 80-100 euro. Voi invece riuscite a contenere i costi, come fate? Allora, questa dei costi non è una questione secondaria, per noi è stata una scelta politica, etica di fondo, cioè noi volevamo liberare la psicoanalisi da un cliché che l'affligge e che la caratterizza, la stigmatizza come una terapia per ricchi, rendendo possibile una terapia psicoanalitica a chiunque la chieda, a chiunque la domandi. Allora, per questo abbiamo deciso e per questo abbiamo scelto anche, diciamo, come forma associativa la formula della Onlus, perché la nostra vocazione sociale è proprio quella di mettere a disposizione la psicoanalisi anche a ceti sociali svantaggiati, che sono tra l'altro quelli che in maggior parte ci contattano. L'abbattimento delle tariffe è un abbattimento che raggiunge il 50-60% dei costi medi oggi sul mercato. Come possiamo sostenere questo nella misura in cui non abbiamo, come dicevo prima, finanziatori, non abbiamo sovvenzioni? Beh, avviene attraverso un sacrificio soggettivo, cioè noi il tempo che dedichiamo, che non è tutto il nostro tempo professionale ovviamente, il tempo che dedichiamo in Jonas è un tempo in cui ciascuno di noi decide di lavorare sotto costo. Quindi guadagnate meno, insomma. Sì, semplicemente. Chi sono quindi i vostri pazienti? Famiglie operai, impiegati che patiscono, famiglie di impiegati che patiscono particolarmente la crisi, molti immigrati, questo è un fenomeno nuovo, e molte famiglie. Per esempio, noi siamo riusciti a rendere possibile un servizio gratuito per i bambini cosiddetti iperattivi, che è un'altra malattia, diciamo, della contemporaneità, per cui noi abbiamo creato un servizio che si chiama Gian Burrasca all'interno di Jonas, che si occupa di bambini iperattivi attraverso delle attività di atelier, di gioco durante la settimana e che per le famiglie è un servizio gratuito. Questo è reso possibile l'unico finanziamento che noi abbiamo dall'Elvezia Assicurazione, appunto, che ha stanziato una cifra che ci permette di pagare gli operatori e di non far pagare gli utenti. Tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. Tornando alle sedute di psicanalisi, quanto può costare quindi da voi una seduta? A Milano le cifre sono intorno agli 80-100 euro a seduta a paziente. Il principio che noi abbiamo voluto adottare, il principio etico, è quello che le ho detto prima, cioè chiunque chieda una psicanalisi, noi dobbiamo essere in grado di dire di sì a questa richiesta. Questo significa che dal punto di vista etico, anche se abbiamo avuto cure a 5 euro a seduta, parlo di eccezioni evidentemente, no? Ma per sottolinearle il fatto che abbiamo veramente cercato di applicare alla lettera questo principio, il decreto Bersani ci ha aiutato molto, nel senso che ha smantellato, diciamo, le tariffe stabilite dall'ordine e dunque ci ha consentito maggiore libertà di movimento. Direi che la tariffa media in zona sono 30-35 euro a seduta. Come mai la psicanalisi ha dei costi di solito così alti, tanto che le masse di solito non vi possono accedere? Allora, qui lei apre un capitolo enorme che a me interessa molto. La psicoanalisi è stata accusata di essere una terapia borghese, di essere fortemente orientata ai ceti benestanti. Il nostro sforzo, appunto, è stato quello di contrastare questa rappresentazione della psicoanalisi. Devo dire che il problema della tariffa rientra anche in un capitolo della tecnica psicoanalitica, cioè l'idea che, per esempio, la tariffa dello psicoanalista debba essere costante a prescindere dal tipo di paziente che si incontra. Nella psicoanalisi, soprattutto con l'insegnamento del dottor Lacan, che è il nostro maestro, questo principio, diciamo, costante della tariffa è stato sovvertito. Se arriva un ragazzo che dice che per pagarsi gli studi lavora lavora di notte nell'edicola e poi ha una madre malata e una famiglia dissestata e però ci tiene a fare una psicoanalisi perché soffre di insonnia e può pagare 10-15 euro a seduta, non c'è bisogno di chiedere 7,40. E mi pare corretto questo, corretto dal punto di vista etico, cioè perché una psicoanalisi deve costare, ma può costare anche con 10 euro seduta per il soggetto, perché per quel ragazzo che fa l'edicolante di notte per pagarsi gli studi e per pagarsi la sua analisi, 10 euro sono già un costo. Diceva che ci sono anche sempre di più immigrati fra i vostri pazienti. Soffrono degli stessi disturbi degli italiani o ci sono dei disturbi specifici? No, guardi, quello che io vedo, a meno che a Jonas, che poi appunto è un osservatorio particolare, che noi vediamo, per esempio abbiamo una clinica importante sulla problematica delle adozioni, di bambini che provengono da altre culture, da altre situazioni, che vengono adottati, che sono bambini problematici. Viene enfatizzata la problematica, che poi riguarda anche le persone più adulte, dell'integrazione. Come dire, far sentire l'integrazione come una possibilità e come aiutare il soggetto a superare una sensazione che a volte è una sensazione, diciamo, sostenuta dal discorso sociale, di emarginazione, di non integrazione, di esclusione, eccetera. Questo è, per esempio, nei bambini si vede bene come questa problematica dell'integrazione sia molto forte. Prima parlava di questo progetto Gian Burrasca per i bambini iperattivi. Si discute molto della valenza o meno di una cura farmacologica per questi bambini. Voi mi sembra che abbiate un approccio completamente diverso. Ma noi sull'iperattività abbiamo una posizione molto radicale, cioè i farmaci non curano, i farmaci fanno stare peggio. I farmaci risolvono le angosce dei genitori perché sedano il bambino e tranquillizzano i genitori. Il farmaco sul bambino ha effetto sedativo per i genitori. E nel 90% dei casi di iperattività, come in generale mi verrebbe da dire, qui parla lo psicoanalista, dei sintomi dei bambini, il 90% hanno sempre a che fare col funzionamento della coppia genitoriale o col disfunzionamento della coppia genitoriale. Posso citare la cosa di cui io sono più esperto, che sono i disturbi del comportamento alimentare infantili. Ogni volta che c'è un disturbo del comportamento infantile dell'alimentazione, c'è qualcosa che non funziona nel legame familiare. I bambini sono lo specchio somatico, diciamo così, di ciò che non funziona nella relazione familiare, di solito. Nell'iperattività questo è confermato, questi bambini sono bambini iperattivi perché c'è una inattività dei genitori nella loro funzione educativa. L'iperattività è un effetto della inattività della funzione educativa dei genitori. E quindi curate i genitori? Quindi noi curiamo i bambini facendoli giocare, non assillandoli con la domanda stai fermo, comportati bene, non muoverti. Più c'è insistenza, più c'è resistenza. Quando la madre dice mangia, mangia, mangia, l'effetto è quello di provocare l'opposizione a mangiare, studia, studia, studia e produciamo dei deficienti. Cioè c'è questa logica stretta che la psicoanalisi evidenzia tra il fenomeno dell'insistenza educativa e il fenomeno della resistenza oppositiva. Sul lato dei genitori, perché giustamente lei dice, ma allora se il problema sono i genitori non si può lavorare solo con i bambini, certamente non si può lavorare efficacemente solo con i bambini, bisogna lavorare anche con i genitori e lì facciamo dei gruppi con i genitori, quelli disponibili, e che sono gruppi condotti da uno psicoanalista che si ritrovano ogni settimana e che diciamo costeggiano il lavoro che facciamo con i bambini.